Oggi noi non siamo più neanche meravigliati di quanto si diffondano nel mondo con rapidità e in tutti gli angoli del pianeta le notizie. E ci sembra che questo sia un'invenzione dell'uomo d'oggi. Ma se noi conoscessimo un po' la storia dell'Europa, già a cominciare dal VII secolo in poi, dal 600, 700 fin su, saremmo meravigliati dal vedere come l'Europa è stata percorsa in tutte le direzioni da predicatori della fede cristiana, monaci, frati. Prendiamo per esempio il santo che celebriamo oggi, San Bonifacio. Bonifacio era nato nel 673 in Inghilterra, pensate. È diventato monaco, è venuto a Roma, perché Roma è sempre stata il centro di irradiazione del Vangelo, il Papa, ed è stato mandato come vescovo nelle terre del centro Europa, le terre germaniche, Baviera, Turingia, e poi nelle chiese di Francia, dove con la sua capacità risvegliò la fede cristiana e impiantò nuove chiese. Finché, sempre così, chi si muove dà fastidio, è stato assassinato e il suo corpo è sepolto in quella santuario di Fulda. Io non l'ho mai visto, ma conosco dalla storia che è un po' il centro cattolico della Germania. Ora, ripeto, conoscere un po' la storia della Chiesa sarebbe una bellissima scoperta. È bello conoscere la Bibbia, ma è bello conoscere anche la storia delle chiese suscitate dall'evangelizzazione. Però io sempre, quando conosco queste cose, mi sforzo di portarle al giorno d'oggi e chiedermi: questo slancio di evangelizzazione dell'Europa, e che poi continuò con le missioni al di là dei mari, è ancora presente oggi nella Chiesa? Cioè, c'è ancora nella Chiesa gente, uomini, donne, che sentono così forte il desiderio di portare Gesù alle persone che ancora non lo conoscono? Voi mi direte, ma oggi in Italia e in Europa non lo conoscono più. Certo, missioni anche a casa nostra. E tuttavia missioni anche in giro. Non si è spento questo slancio missionario. Se si celebra la giornata missionaria ogni anno, se il mondo è percorso da uomini e donne, magari che anche noi conosciamo, preti, suore, ma anche famiglie, persone sposate, che vanno lontano a portare il Vangelo, questo è sempre interessante. Io però vorrei spendere una parola per dire come questo avviene ancora dalle nostre parti, dove accanto a sacerdoti e a suore, sempre di meno, lo Spirito Santo suscita voi, il popolo cristiano, per diffondere l'amore a Gesù. E vi porto alcuni semplici casi che non faticherete a conoscere. Quanta gente io conosco che diffonde l'amore alla fede, per esempio nella coroncina della Divina Misericordia. L'ha mica diffusa ai preti, eh? Io stesso non l'ho mica imparata in parrocchia, l'ho imparata da una persona sposata, fedele a questo. Questa è una grande diffusione, eh? Una volta magari erano le suore che diffondevano l'amore al Sacro Cuore di Gesù, la medaglia miracolosa e così via, ci sono ancora, ma ci sono anche tanti semplici fedeli battezzati. Oppure la frequenza ai santuari. Se io penso a Lourdes, penso alle schiere di persone volontarie che li portano ammalati nelle varie sigle, l'Unitalsi, l'Oftal, ma in tutta Europa è così, eh? e altrove in Spagna, per esempio, ci sono fiumi di giovani, fiumi di ragazzi e di studenti che sono portati a Lourdes. Se penso a Medjugorje, se era per i preti e per il clero, era già morta. Quanti laici, voi, le persone del popolo, da 30 e più anni hanno diffuso questo che ormai la Chiesa ha autorizzato, no? E domani aspetteremo gli sviluppi che senz'altro ci saranno. Oppure se io guardo nelle nostre case, chi insegna a pregare le orazioni del mattino e della sera? I sacerdoti? No, non vengono a casa nostra. Siete voi donne, mamme, spose, nonne. E nelle parrocchie, quanto è in mano ormai la diffusione della fede cristiana a voi battezzati, a voi laici, catechiste, animatrici liturgiche, lettori, lettrici, cantori, quanta animazione liturgica ormai è in mano a voi. Non vi sembra che sia ancora la stessa cosa oggi di tutto il popolo cristiano e non solo come nel VII secolo di Bonifacio o di tutti gli altri che hanno percorso l'Europa? Insomma, tutta la Chiesa è missionaria. Dipende se abbiamo dentro nel cuore l'amore a Gesù. Se uno ha dentro questo amore, gli fluisce fuori, gli scappa fuori. Necessariamente uno va a un santuario, a un pellegrinaggio, torna a casa e ne parla, e ne parla, e ne parla. Anche questo è missionarietà. E sia benedetto lo Spirito Santo, che è l'anima della missione.